in primo piano. Giovedì 20 gennaio, subito uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, ancora sulle relazioni industriali dopo il referendum di Mirafiori, un contratto di lavoro a menù, questo è il titolo di apertura, con la svolta di Federmeccanica che annuncia proprio la svolta di possibili accordi aziendali alternativi a quelli nazionali. E poi invece tutti i giornali si concentrano sul nuovo videomessaggio di Berlusconi. Costituzione violata, punire quei PM, questo è il Corriere. Berlusconi, questi PM vanno puniti, per Repubblica. La Stampa, Berlusconi, punire quei PM, come vedete titoli molto simili. Per il Giornale è un golpe, fermiamoli. Mentre il Fatto Quotidiano, finché c'è lui si mangia, la frase preferita di Rubi è il manifesto dei Berluscones. Per il Manifesto, videoporno, questo è il titolo d'apertura, mentre è Libero, l'Italia perdonerà Silvio, si continua con questo escamotage, l'intervista a Vittorio Feltri che non può scrivere per la sospensione dell'ordine, dunque viene intervistato da Maurizio Belpietro. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima sul Corriere della Sera, pagina 23, parla di scuola, l'istituto che dà 150 euro ai migliori studenti a metà anno. È un'iniziativa dell'ITIS, l'Istituto Tecnico Feltrinelli a Milano. Ma che libri o viaggi? Soldi, banconote fresche di Bancomat. È il regalo più gradito dai ragazzi ed è con questa motivazione che in consiglio d'istituto è passata la linea euro. Le eccellenze, chi ha tutti 8, verranno premiate con moneta sonante. Lo racconta Federica Cavadini, 150 euro per i migliori studenti, quelli che hanno tutti 8. Ovviamente questo ha suscitato il dibattito. C'è per esempio un intervento della psicoterapeuta Silvia Vegetti Finzi che dice no, così i voti diventano una merce. C'è invece chi dice no, è giusto premiare con denaro gli studenti più bravi, gli studenti che meritano di più. La scrittrice Mastrocola per esempio dice è giusto distinguere i bravi anche dando loro dei soldi. Dibattito aperto, questa scuola di Milano lo fa. Da soldi 150 euro agli studenti più bravi. E poi su Repubblica, pagina 29, un tema che abbiamo già toccato nei giorni scorsi e ora torna prepotentemente, perché l'assessore regionale del Veneto, dopo l'assessore provinciale di Venezia, l'assessore regionale del Veneto ha deciso di mandare una lettera a tutte le scuole del Veneto invitando a proibire, a tenere in biblioteca i libri degli autori che hanno appoggiato Cesare Battisti. L'appello per la non estradizione di Cesare Battisti. Nelle scuole venete proibiti Saviano e Battisti. E questa è la polemica. Carlo Brambilla in prima pagina di Repubblica. Arriva la lista dei libri proibiti. Il Veneto dice ai presidi: sono diseducativi, no agli autori pro Battisti. Censure anche a Saviano, che firmò questo appello e poi peraltro ritirò la firma. Un boicottaggio civile, dice l'assessore all'istruzione regionale Elena Dorazzan. Un boicottaggio civile è il minimo che si possa chiedere davanti a intellettuali che vorrebbero l'impunità di un condannato per crimini aberranti. C'è anche l'appoggio del governatore del Veneto Zaia, che definisce la vicenda Battisti abominevole, e ovviamente ci sono gli autori che reagiscono. È una cosa incredibile, una censura incostituzionale, al di là di chi ha firmato l'appello o chi non ha firmato l'appello. Insomma, anche questo è un dibattito che continua da un po' di giorni. La censura, comunque l'invito a non tenere in biblioteca, ci sono già, pare, biblioteche del Veneto dove alcuni degli autori che hanno firmato per Battisti non sono più trovabili negli scaffali per quel che riguarda i loro libri. La notizia che trova più sviluppo sui giornali per quel che riguarda la vicenda Rubi è l'attacco in videomessaggio, un nuovo videomessaggio del premier Berlusconi. L'attacco ai PM: vogliono sovvertire il voto popolare. Le accuse di Berlusconi: pensate che la mia casa è stata sottoposta a un continuo monitoraggio dal gennaio del 2010 per controllare tutte le persone che entravano e uscivano. Mi hanno iscritto come registro, come indagato solo il 21 dicembre, guarda caso 7 giorni dopo il voto di fiducia, quindi tutte le indagini precedenti presenti erano formalmente rivolte verso altri, ma sostanzialmente controllavano me. E poi sui magistrati di Milano vorrei andare immediatamente dai giudici, ma non posso presentarmi a PM che non hanno competenza, anche per non avallare l'illegittimità che denuncia. Insomma, Berlusconi che attacca molto duramente. Tra l'altro c'è il commento di, voglio segnalarlo, di Stefano Folli sul Sole 24 Ore a pagina 25. Questo attacco molto duro, la risposta del Premier, scrive Folli, è un no alle richieste di Napolitano. La controffensiva di Berlusconi, scrive Folli, è cominciata sulle reti televisive, sullo sfondo un po' incongruo del tricolore e della bandiera europea. Soprattutto il messaggio contiene una risposta implicita a Giorgio Napolitano, che aveva chiesto di chiarire la vicenda delle sedi proprie, in primo luogo quella giudiziaria. La risposta è un no. Cosa avrebbe voluto il Presidente della Repubblica? Appunto non lasciare zone d'ombra circa le gravi ipotesi di reato, magari inconsistenti, ma sulla carta gravi, e in subordine non alimentare il conflitto istituzionale. Berlusconi ha fatto esattamente l'opposto. Berlusconi, ancora Folli, scrive, non intende farsi intimidire, ovviamente non pensa nemmeno alla lontana di dimettersi. Allo stato delle cose la paralisi è totale, c'è da aspettarsi il peggio nel prossimo futuro quanto a veleni e lacerazione. Il discorso di Berlusconi, anzi, è sembrato a molti una piattaforma elettorale. E tra l'altro, che la reazione di Napolitano sia veramente sbigottita, questo è l'aggettivo che utilizza per esempio Federico Geremicca sulla Stampa, lo si legge proprio sul quotidiano di Torino a pagina 5. Napolitano sbigottito dalla linea del Cavaliere. Napolitano non c'è rimasto di sasso solo perché a quell'ora era un concerto e dunque non ha potuto apprendere in tempo reale le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, ma l'irritazione, una volta informato, e soprattutto lo sbigottimento gli hanno rovinato la serata. Quasi non poteva credere a quello che i collaboratori gli riferivano. Questo racconta Federico Geremicca, cioè la reazione del Quirinale è molto stupita, visto che nell'incontro un paio di giorni fa si era parlato di clima abbastanza disteso e comunque della necessità di Napolitano, fatta presente al Premier Berlusconi, di chiarire la vicenda. Invece questo duro attacco, che sicuramente alzerà i toni dello scontro istituzionale e che il giornale per esempio mette in prima pagina così, è un golpe, fermiamoli. Tra l'altro il direttore Alessandro Sallusti fa una scelta editoriale abbastanza interessante, cioè pubblica in prima pagina la lettera di un berlusconiano fedelissimo, così si definisce lettore e fedelissimo elettore di Berlusconi, che dice: però mi viene anche un dubbio. A questo punto forse è il caso che Berlusconi lasci la poltrona a Tremonti, a Letta, a Maroni, a Brunetta, nel frattempo vada da chi lo accusa e lo sbugiardi. E la risposta del direttore Sallusti è: non cadiamo nel tranello. È il momento di non abbandonare proprio in questa fase il Presidente del Consiglio, perché, scrive Sallusti, è un cedere alla tentazione di un cambio in corsa che significa cadere nel tranello mediatico giudiziario orchestrato da procure e stampa di sinistra. Poi, tra l'altro, a riguardo della stampa in senso come quotidiani, Sallusti dice: il Corriere, Repubblica, i due giornali che raccontano più indignati le frequentazioni con ragazze di dubbia moralità sfruttano la prostituzione, e nessuno può escludere se minorile o no, pubblicando a pagamento annunci nei quali giovani escort si offrono ai lettori. Eppure nessuno indaga. Per quel che riguarda l'inchiesta, la notizia la rivela Libero con Gianluigi Nuzzi in prima pagina. Secondo Libero ci sono almeno migliaia di intercettazioni, migliaia di pagine, mille pagine, che al momento la procura non ha depositato agli atti. Ci sono altre mille intercettazioni nascoste, scrive Nuzzi. L'arma finale della procura di Milano è custodita negli armadi blindati del quinto piano della procura, con Ilda Boccassini che sorveglia e nessuno che può accedere all'area dove le trascrizioni, il riassunto delle intercettazioni telefoniche tra le ragazze di Via Olgettina e i parlamentari coperti dall'immunità. Eccolo qui, documenti nei quali ci sarebbero migliaia di pagine di documenti di parlamentari, di intercettazioni di parlamentari, scrive Libero, anche di centrosinistra. no, che sono coperti al momento dall'immunità, dunque non sono divulgabili. Si è deciso di non depositarne i contenuti, si è chiesta l'utilizzabilità alla Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera, e così al momento non sono nel materiale di prova, ma sono i documenti contro Silvio, secondo Libero. Libero che per il secondo giorno consecutivo pubblica, appuntate, lo farà, tutti gli ampi, non ampi stralci, proprio il documento totale di tutto quello che è a corredo della richiesta di indagine della Procura di Milano. Ancora 10 pagine di queste intercettazioni. Emilio Fede che chiama al telefono alcune ragazze per invitarle a cena dal Premier, non si va a letto a mezzanotte, le telefonate tra le ragazze che frequentano Arcore con le contrattazioni con potenziali clienti, la presunta fidanzata Roberta Bonasia che confida al fratello i suoi piani per spennare Silvio, le ragazze che dicono si scambiano sms per preparare una festa ad Arcore, così tiriamo su di morale il capo. Tutto questo lo trovate con sms, intercettazioni, stralci, tutto sui giornali. Secondo il Fatto Quotidiano, a pagina 3, c'è anche un'intercettazione che potrebbe incastrare Berlusconi. Qua sono sempre tutti stralci di telefonate. Quando Rubi si trova da Niccolò Ghedini, che sta facendo delle indagini preventive previste dal codice di procedura penale, e l'ex fidanzato di Rubi al telefono dice: sono sceso un attimino, sono venuto a far due passi, lei è su, che si sono fermati un attimino perché siamo alle scene hard con il pr, che c'è PR, con il pr, con la persona. Ma figurati, dice l'interlocutrice. Sì, con lei? Sì, guarda, ti racconterò tutto. Vabbè, non dirmelo per telefono. E questa scene hard con il pr, secondo il Fatto Quotidiano, potrebbe voler dire, insomma, che Rubi sta raccontando le scene hard di Rubi con il Premier. A proposito di Rubi, ieri io non l'ho vista, ma è andata in TV da Signorini, ha detto della sua vita drammatica: i miei zii mi violentarono a 9 anni, show in lacrime da Signorini, racconta il Corriere della Sera, pagina 10, mi sono inventato una vita parallela. Per la stampa è l'ultima capriola di Rubi, il Premier non mi ha toccato neanche con un dito. Beh, certo, insomma, versioni diverse ci sono da varie interviste, da varie intercettazioni. Questo sì, ci sono nuove intercettazioni riguardo a Emilio Fede, a pagina 11 del Corriere della Sera. Fede che parla con Mora, lui è pieno, pimpante, mi ha chiamato adesso, ma proprio pimpante, è la serata giusta. Ma chi trovo? Chiede Fede a Mora. Ho detto a Daniele, chiedi consiglio a Leila, chi trovo? E Mora, faccio due telefonate, subito, per favore. E subito dopo Lele Mora chiama Daniele Salemi, il suo factotum a Torino, gli gira la richiesta, pare che vengano reclutate le vallette del programma Vivere Meglio, sul programma di salute che va in onda su Rete 4, e però poi dicono no, ma è troppo tardi, sono le 8:30, come facciamo? La serata, scrive il Corriere, viene organizzata comunque con Emilio Fede che rintraccia la sua amica Imam Fadil, e alla fine le ospiti sono tutte straniere, le rumene Ioana Claudia Amargioale, Ioana Visan, la brasiliana Iris Berardi, la russa Raissa Skorkina. L'intervista, intercettazione titolata così: Fede, le feste ad Arcore, lui stasera è pimpante, chiama le vostre vallette. E poi c'è ovunque titoli sulle famiglie di queste ragazze. Tutti i giornali si concentrano sulle famiglie di queste ragazze. Svegliati, figlia mia, il triste esercito degli aspiranti suoceri. Così le famiglie che spronavano le ragazze, ne parla La Stampa con Maria Corbino, fa il Corriere con Goffredo Buccini. Cioè, tutti a analizzare chi sono queste famiglie, i cui genitori, queste ragazze, i cui genitori le spronano. Cioè, no, oppure i fratelli che dicono appunto: dai, su, vai a queste feste che magari ci facciamo un negozio, ci guadagniamo 5.000 euro. Ci guadagniamo 10.000 euro, tanto che in prima pagina della Stampa oggi vi vorrei leggere il buongiorno di Massimo Gramellini, la buccia del chinotto. Un amico sorride amaro, non farti illusioni, potenzialmente siamo tutti come lui e la sua corte, trombare e fare soldi, interessati solo ai bisogni primari, ai chakra bassi, per dirla alla maniera di voi che meditate e fate yoga. Sì, qualche disturbato che sogna con un romanzo o va in estasi per una notte d'amore sotto le stelle esisterà pure, ma è la buccia del chinotto, scorza sottile, percentuale insignificante. Davvero? si chiede Gramellini. Davvero la maggioranza dei giovani assomiglia a quel tipo che incita sua sorella a infilarsi nel letto di un anziano miliardario, così ci sistemiamo? Davvero il mondo contemporaneo si divide tra padri padroni disposti a uccidere le figlie che osano ribellarsi e padri ruffiani che nelle intercettazioni le incitano a sgomitare perché le altre ti sono passate davanti? Svegliati! Sarò un ingenuo, eppure vedo ancora in giro della dignità. Anche in tanti poveri che una busta di 5.000 euro l'hanno magari sognata, ma non la vorrebbero trovare nella borsa della figlia a quelle condizioni. Vedo donne, uomini pieni di vizi, ma che non invidiano lo stile di vita dei crapuloni e sognano di invecchiare con una persona amata al fianco e la musica di Mozart nelle orecchie. E quando, come ieri, alcuni lettori telefonano al giornale per segnalare che una luna mai così arancione è spuntata tra le colline, mi arriva sul tavolo la raccolta di poesie di una ragazza timida, allora penso che non è finita, che la buccia del chinotto è più spessa di tutto il gas che le sta esplodendo attorno in un enorme rutto di niente. E ancora, che dire, Spinelli, pagavo ma solo se era autorizzato. Mario Gerevini del Corriere della Sera raggiunge Giuseppe Spinelli, uno dei fidatissimi gestori delle holding private di Silvio Berlusconi, che dice: succedeva così, magari un giorno si aiutava un'organizzazione di bambini malati di leucemia e un altro una studentessa per pagare l'università o l'affitto. Una studentessa, chiede Gerevini. Non vorrei che passasse il concetto che questa delle ragazze fosse una cosa di peso. Nell'economia della mia giornata lavorativa occupava 10 minuti. Anche Ruby pagata? Ruby era molto insistente, risponde il ragionier Spinelli. Io rispondevo picche, lei telefonava e io dicevo aspetta. Diceva che non aveva i soldi per pagare il taxi, le hanno dato 50 euro una volta, ma lei ne voleva 100. E io pagavo solo se autorizzato. E chi l'autorizzava? Il cavaliere? Sì. Direttamente? Sì. Chiedevo a lui perché non facevo nulla se non autorizzato. E io non butto via i soldi, ho la coscienza a posto, sono sereno. Parla il fiduciario del premier Spinelli, quello da cui appunto molte ragazze andavano per chiedere dei soldi, secondo le accuse. Vabbè, trovate ancora tanto sui giornali davvero di questa vicenda. Potete trovare intercettazioni, eccetera. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Come detto, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata sempre al tema delle relazioni industriali. Ormai dopo qualche giorno, dopo il voto a Mirafiori, le successive discussioni, un contratto di lavoro a menù, la novità è abbastanza clamorosa, importante, la troviamo sviluppata a pagina 3, perché una volta chiuse le urne a Mirafiori, la proposta destinata a incidere in modo profondo sulle relazioni sindacali, scrive Nicoletta Picchio, è lanciata da Federmeccanica. Vale a dire, il contratto aziendale per determinate situazioni può essere alternativo a quello nazionale, fermo restando alcuni contenuti minimi. E questa è la proposta lanciata da Federmeccanica, sulla quale poi si discuterà. E l'idea degli imprenditori metalmeccanici poi discuteranno a partire da lunedì, ma certo c'è già un forte dibattito su questo, con la presidente di Confindustria Marcegaglia, che dice: Federmeccanica sta reagendo velocemente alla sfida del cambiamento, la proposta è un elemento di tempestiva modernizzazione. Dunque, come molti dicevano che la Fiat avrebbe in qualche modo accelerato anche una svolta da questo punto di vista, ecco la proposta di Federmeccanica: contratti anche solo aziendali. A proposito di lavoro, non è incoraggiante quello che trovate su tutti i giornali, sviluppato da una ricerca dell'Istat. Noi Italia, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, un giovane su 5 non ha lavoro e né crede di trovarlo. E poi anche un altro dato che mi ha fatto molto pensare: una donna su 2 non lavora e ha rinunciato a cercare il lavoro. Siamo agli ultimi posti in Europa per il tasso di occupazione femminile, siamo al 46,4%, per appunto una donna su 2 non lavora e neanche sceglie di cercarlo questo lavoro, ci ha rinunciato. E tra l'altro, riguardo al focus sui giovani, il Corriere della Sera racconta, pagina 19, la storia di 3 milanesi rifiutati in Italia che hanno sfondato invece nella Silicon Valley e San Francisco. Sono Augusto Marietti, Marco Palladino e Michele Zonca, cresciuti a pane e tecnologia, che in Italia ricevevano sempre la stessa risposta: avete solo 20 anni. Cioè, quello che doveva essere un punto a favore in Italia era un ostacolo. Siamo andati negli Stati Uniti, abbiamo avuto alcuni contatti con i finanziatori di YouTube E poi che è successo? Addirittura sono venuti nella nostra stanza del motel che condividevamo con altri due ragazzi. Si sono seduti sul letto gonfiabile di uno di noi. Non credevamo ai nostri occhi. Abbiamo capito che quello che contava era la nostra idea e non la nostra situazione sociale, non la nostra età. In quel momento eravamo come loro, senza differenze. Ed ecco qui, è arrivato il primo finanziamento, $100,000, e adesso Augusto, Marco e Michele sono in viaggio per l'Europa per sviluppare l'idea e acquisire più utenti possibili. Ce l'hanno fatta, racconta Ambra Craighero sul Corriere della Sera, certo non in Italia. A proposito di America, c'è molto, per quel che riguarda la pagina degli esteri, oggi è molto interessante. Perché cosa? Beh, l'incontro storico che c'è stato tra Obama e Hu Jintao, il presidente della Cina, tra Obama e Hu, più business che diritti, si è parlato più di business che di diritti, questo Mario Platero sul Sole 24 Ore. Ma io devo andare alla segnalazione conclusiva, e allora voglio andare a quello che è il tema del nostro sondaggio, perché oggi c'è Barbara D'Urso, intervistata dal Corriere della Sera, parla anche delle polemiche e del tema del nostro sondaggio di Francesco Nuti, che è apparso visibilmente provato dalla malattia in TV domenica scorsa. Il flop: sono un soldatino della TV e non devo pentirmi di nulla. Rifarei l'intervista a Nuti. Chi lavora con i disabili mi ringrazia. La mia redazione ha visto Francesco Nuti da Magalli, perché è andato in Rai anche un paio di mesi fa, e ha contattato i suoi familiari. Ho avuto anche il calciatore Stefano Borgonovo, malato di SLA. Perché lui sì e Nuti no? E Renato Franco chiede, beh, forse Borgonovo serve a sensibilizzare la ricerca sui fondi sulla SLA. Sì, ma Nuti è testimone di un vortice nel quale è caduto: depressione, alcol. Giuri che lei non l'ha fatto per gli ascolti. Se avessi voluto cercare ascolti l'avrei messo all'inizio del programma, non alle 23:30. Sta di fatto che chi mi accusa di fare la TV trash mi dissocio, lascio dire, ma è solo il punto di vista di qualcuno. È il tema del nostro sondaggio. Che ne pensate? Francesco Nuti è apparso in TV con smorfie di dolore per la malattia. Questo ha suscitato polemiche, chi dice che non era una cosa, una scena da far vedere. Questo vi chiediamo noi, è una scelta che condividete, far apparire Francesco Nuti malato in TV. Barbara D'Urso si difende: non devo pentirmi di nulla, lo rifarei. Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8:30, mentre dopo il GR ci sarà il sottosegretario Giovanardi a parlare della vicenda Ruby.